Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Direi che si spostano e sotto c'è l'anfratto, ma abbiamo pure l'appartamento sotto l'appartamento, cioè si riesce a spostare un gradino di una scala e si va sotto e si trova un altro appartamento. E poi sotto quell'appartamento si sposta un altro gradino e sotto c'è un'altra stanza protetta ancora, il tutto magari impermeabilizzato in modo che se si butta l'acqua non filtra e non fa capire che sotto c'è qualcosa, con energia elettrica, con televisione e poi magari con cunicoli che portano definitivamente fuori dell'area. Ecco. E ci sono anche dei covi un po' alla Diabolik con sportelli che si muovono attraverso pistoni oleopneumatici, quelli che si montano sui camion con ribalta. Tempo fa, quando ci furono, sono passate alla storia alcune retate di camorra in cui furono trovate in queste case, tipo quella di Taverna del Ferro, le pantere, oppure anche oggetti placcati d'oro, quelle forme di ostentazione di potere ci sono ancora? Ci sono ancora, però ecco, questa è una cosa che abbiamo notato, chiaramente questi erano i grandi capi, quelli che andiamo a arrestare adesso, le nuove leve, si vede che non se la passano più così bene e questo denota una sostanziale crisi del sistema. Anche da loro la liquidità comincia a scarseggiare. Problemi ne hanno avuto e non sono certi problemi della recessione nazionale, insomma sono proprio problemi dovuti all'attività operativa. L'ultimo l'hanno trovato sotto il maxischermo di un televisore. Rimosse alcune mattonelle, si è aperto il bunker segreto di Antonio Iovine, uno dei super latitanti della camorra. Siamo a San Cipriano d'Aversa, nel Casertano, nel cuore del feudo del più potente clan della zona, quello dei Casalesi. E qui, in queste terre, in paesaggi che a volte sembrano richiamare nelle periferie piuttosto il degrado di alcuni centri medio orientali, ci inoltriamo con il colonnello Carmelo Burgio, alla guida dell'arma a Caserta, dopo essere stato, tra l'altro, proprio in Iraq. E da indagini dei suoi uomini è partita anche l'inchiesta che avrebbe prima coinvolto i vertici dell'Udeur, poi ancora sfociata nel terremoto giudiziario della Global Service a Napoli. Ma questa è un'altra storia, anche se è uguale all'investigatore a caccia ora dei camorristi in fuga. Certamente fare servizio in queste aree è sicuramente diverso che fare servizio in altre aree d'Italia che sono caratterizzate da un livello di sicurezza pubblica sicuramente migliore. Lavorare in una terra dove è presente la camorra vuol dire partire dal presupposto che bisogna sconfiggerla, bisogna lavorare in maniera coerente e continua per arrivare a questo tipo di risultati. Vuol dire anche un rapporto diverso con la città e con la popolazione nel momento in cui si lavora su qualche fatto? Io dico sempre un discorso di percentuali, perché di situazioni illegali se ne trovano in tutta Italia. Il nostro tipo di lavoro è un lavoro che richiede molta riservatezza e molta attenzione, quindi uno tutto sommato applica lo stesso livello di riservatezza e di attenzione sia se fa il carabiniere in aree sicuramente più tranquille, sia che lo fa qua. Il vero problema, la vera differenza sta nella percentuale di attività, magari qui di attività delicate uno contemporaneamente ne deve condurre più di una giornalmente, quasi ogni settimana, comunque c'ha momenti di picchi di tensione in cui deve concludere un'attività o arrivare a uno snodo particolare dell'attività, magari in zone più tranquille la cosa capita con una cadenza meno frequente. C'è però anche un rapporto con la popolazione differente. Quanto è alta la percentuale della gente nei territori dove voi operate nella collaborazione con le vostre indagini? Ma sicuramente per una serie di considerazioni è molto difficile avere della collaborazione in questa terra. Diciamo che però, io posso parlare sulla scorta di un'esperienza quadriennale, perché ormai ho iniziato il quinto anno di comando a Caserta e ho avuto la possibilità di vedere un'evoluzione in meglio, nel senso che se inizialmente capitava di fare delle indagini, di avere il pentito che diceva di aver riscosso il pizzo, di avere le intercettazioni telefoniche che ci garantivano che il pizzo era stato pagato, di aver trovato magari libri master in cui si evidenziava che qualcuno aveva pagato, quelle ditte avevano pagato, andavamo dai proprietari delle ditte e negavano recisamente e assolutamente di aver pagato alcunché, anche di fronte all'evidenza, quindi correndo anche il rischio di essere poi a loro volta denunciati per favoreggiamento, e questo era, diciamo, lo scenario con cui ci si confrontava 4-5 anni fa. Adesso abbiamo visto che si comincia a assistere a una reazione, non è una reazione generalizzata, però una reazione c'è, quindi vuol dire che il fatto che in questi anni abbiamo praticamente eliminato il clan Massaro, abbiamo notevolmente ridimensionato il clan Iovine, abbiamo fatto a pezzi qualche anno prima il clan La Torre, abbiamo fatto a pezzi il clan Bidognetti, questo ha dato sicuramente fiducia alla popolazione, ha dato fiducia alla popolazione, e la popolazione inizia a rivolgersi con un po' più di attenzione, con un po' più di fiducia, ecco, con un po' più di coraggio anche. Qual è in questo momento il clan egemone nella provincia? Ma in provincia il vero clan importante è il clan dei Casalesi. Il clan dei Casalesi a sua volta si divide in gruppi, c'è il gruppo che fa capo a Michele Zaccaria Latitante, il gruppo che fa capo a Antonio Iovine Latitante, del quale abbiamo arrestato recentemente oltre 60 persone e anche la consorte, c'è il clan Bidognetti, o meglio c'era, perché il clan Bidognetti è stato praticamente debellato ed è in galera lo stesso capoclan, mentre la consorte si è decisa a collaborare con la giustizia, e poi c'è il clan Schiavone che comunque a settembre ha avuto un durissimo colpo con oltre 100 arresti fatti dalla polizia di Stato, quindi voglio dire, il clan che è egemone nel Casertano è sicuramente il clan dei Casalesi, però non è sicuramente forte come era qualche anno or sono, e anche le manifestazioni violente che abbiamo avuto in questi ultimi mesi ad opera di quel piccolo gruppo che era capeggiato da Setola, piccolo gruppo che poi se andiamo a vedere è stato anche questo debellato perché è rimasto libero il solo Setola. Questa reazione sanguinosa è stata una reazione che denota sostanzialmente debolezza, perché la criminalità organizzata ha bisogno di calma e tranquillità, perché gli affari si fanno nella tranquillità e la criminalità organizzata seria, tra virgolette, ha bisogno di tranquillità per far girare i soldi. Quando la criminalità organizzata è costretta a armarsi e sparare, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Che ci sono degli equilibri che stanno saltando. Ma più che equilibri che stanno saltando, perché ecco, in questo caso spara al proprio interno, ma quando spara fuori, cioè quando va a uccidere il parente del collaboratore di giustizia, quando va a uccidere l'imprenditore che non paga, e allora il problema non sono gli altri clan, non sono gli equilibri, il problema è la propria debolezza, il problema è che se deve uccidere chi collabora è perché qualcuno ha iniziato a collaborare, se deve uccidere chi non paga è perché qualcuno ha iniziato a non pagare. Cioè, per la criminalità organizzata la crisi non c'è solo quando un altro clan gli fa la guerra o vuole entrare nel territorio, ma c'è anche quando vengono posti in dubbio i principi cardine sui quali essa ha governato, cioè il fatto che quando va a chiedere soldi, i soldi vengono dati, che quando commette un reato nessuno vede mai niente, e quindi se invece succede il contrario, ecco, se succede il contrario, cioè se la gente comincia a denunciare, se la gente comincia a testimoniare, vuol dire che quel gruppo criminale sta andando in crisi. E allora per affermarsi l'unico è fare ricorso alle armi. Ecco, colonnello, lei ha citato tra le ultime operazioni il blitz che ha portato agli arresti un folto gruppo di rappresentanti del clan Iovine. Sono stati trovati anche nelle perquisizioni degli elementi investigativi importanti o degli elementi che segnano anche una novità, nuovi, possiamo, diciamo così, rispetto un po' alla storia, no, delle indagini fatte intorno alla camorra? La documentazione che abbiamo trovato, sia diciamo perquisendo per esempio gli arrestati del clan Belforte, che qui di Marcianise, vicino Caserta, perquisendo i killer recentemente arrestati del gruppo Setola, la documentazione essenzialmente sono libri paga che ci danno un po' la mappatura, ci consentono di dire con sicurezza chi ha pagato il pizzo e perché. Abbiamo documenti che ci hanno consentito, e questo già sta sulle carte giudiziarie, di ricostruire gli organigrammi dei gruppi di camorra, perché quando si vedono gli stipendi, la lista degli stipendi, si capisce chi ha stipendiato. Ci faccia degli esempi, colonnello, sulle, appunto, lei parlava degli stipendi e ovviamente l'organigramma è fatto anche in base al peso che ogni stipendio. È chiaro che quando per esempio abbiamo trovato il libro paga delle estorsioni e il libro degli stipendi, erano inseriti in una pendrive, perché ormai la tecnologia è entrata anche nella camorra. Ecco, quando noi abbiamo trovato dei documenti in cui c'erano gli stipendi degli affiliati, e gli impresari, gli imprenditori che avevano pagato, noi da una parte abbiamo avuto le prove di una serie di reati estorsivi e dall'altra appunto abbiamo capito chi veniva pagato di più e chi veniva pagato di meno, che ruolo aveva, se era di predominio o comunque di gregariato nell'ambito del gruppo. Un altro documento importante, per esempio, è stato quello che ci ha consentito di dire, dopo che abbiamo arrestato i tre killer del gruppo Setola, che purtroppo l'omicidio dei cittadini ghanesi era maturato comunque in una controversia per il controllo del mercato della droga o comunque per l'asservimento dei cittadini africani al locale clan, nel senso che erano liberi di spacciare purché pagassero una quota al clan. Ora, al clan. Ecco, che tipo di documento si trattava? No, era un cosiddetto pizzino in cui Setola chiedeva ai suoi adepti: andate dai neri e fatevi dare o tot o un chilo di cocaina. In sintesi, non voglio assolutamente dire che i sei uccisi fossero sei trafficanti, sicuramente qualcuno di essi si è trovato coinvolto inconsapevole e incolpevole, però sicuramente qualcuno di questi aveva qualche cosa sulla coscienza. E questo pizzino è stato trovato a casa? Nella casa dove abbiamo arrestato Spagnuolo Res, vicino alla casa dove arrestammo Cirillo Alessandro e Letizia Giovanni, sì. Nella famosa casa dove trovaste anche i resti di una cena base di aragosta? Sì, a base di aragoste, astici, e poi le armi, materiale, eccetera, eccetera. I luoghi comuni, un po' anche i cliché e gli status symbol dei camorristi non si perdono? Non tutti i delinquenti vogliono vivere di pane e cicoria, avere il potere. Questo poteva andare bene per i vecchi delinquenti di una volta, per i quali appunto la cosa più importante era il potere, il rispetto, ma le nuove leve no, le nuove leve assolutamente vogliono la macchina bella, vogliono andare nel locale di moda, vogliono mangiare bene, vogliono belle donne, vogliono fare vacanze lussuose, diciamo, vogliono avere i liquidi facilmente. Esatto. Ecco, colonnello, lei prima ha parlato dei vari stipendi, ci faccia un esempio concreto, la differenza tra le ultime leve che possono essere gli esattori del pizzo o gli spacciatori e la cifra più alta che invece avete trovato in questo documento, di che cifre parliamo? Se una moglie di Iovine, anch'essa arrestata, mi sembra che avesse sui 10.000 euro mensili per le piccole spese, un piccolo soldato se la poteva cavare con 1.500-2.000 euro. Storielle. Storiacce. Lei, prima di arrivare in Campania, a Caserta, tra l'altro, è stato in Iraq. Ed è stato in Iraq nei giorni drammatici dell'attentato a Nassiriya. Sì, è difficile parlare anche perché è difficile far comprendere. Cioè, chi ha vissuto certe cose le può capire, chi era lontano comunque non le potrà mai capire. Si è parlato di una, diciamo, vicinanza, chiamiamola così, della difficoltà di lavorare in un contesto come l'Iraq e quello di lavorare in zone difficili nella lotta alla malavita come quelle della provincia di Caserta. Un certo tipo di degrado ambientale urbano sembra di vedere quartieri di quell'area, beh, dico sì, in effetti ci sono delle zone che sono abbastanza degradate. Ecco, alcune zone della provincia di Caserta ci sono dei borghi che davvero si fa fatica a credere che possano esserci a pochi chilometri da Napoli, a pochi chilometri da zone così certo, turistiche. Lei crede che anche in questo ci siano zampini della malavita? Dove c'è il degrado è stato il diretto risultato anche di azioni criminali, ma non solo, perché purtroppo il degrado di Castel Volturno è figlio di altre cose, è figlio, ecco, del trasferimento e della requisizione degli appartamenti per i terremotati, che praticamente ha ha fatto sì che una zona che doveva essere la Portofino di Napoli è diventata praticamente il quartiere dormitorio, e successivamente poi ecco c'è stato il grande sfruttamento della manodopera a basso costo, prima dei neri, oggi degli stranieri dell'est, per l'agricoltura e l'allevamento locale, dove in parte sicuramente ci ha messo lo zampino la camorra, ma non solo la camorra, ecco, non è tutto frutto dell'opera della camorra, il degrado è anche frutto purtroppo di altri tipi di scelte, qualche volta forzate, che hanno portato a quel tipo di situazione. Porte sventrate, facciate senza intonaco, immondizia abbandonata qua e là accanto a palazzi spesso mai finiti. In certi angoli della provincia più profonda della terra di lavoro, nel Casertano, il degrado sembra davvero richiamare i paesaggi di ben altre latitudini, anche se invece molto pochi sono i chilometri di distanza dall'incantevole cartolina del Golfo Partenopeo. E anche in questo abbandono c'è la mano della camorra, ma non solo, precisa Carmelo Burgio, colonnello dei Carabinieri, passato dall'Iraq a Caserta, dove tra l'altro ha seguito la prima parte delle indagini sfociate poi nell'inchiesta su presunti appalti e tangenti a Napoli. Qui la mano della camorra è anche nel caffè che si beve o nel latte distribuito, ma ora per le nuove leve le cose non vanno più così bene, come mostrano anche le ultime case perquisite dai Carabinieri di Caserta. La cassa, chi ce l'ha? Chi è che va a dare i soldi mensilmente? Ma normalmente chi tiene insieme i soldi è un insospettabile, spesso, che viene usato come cassiere, insomma. Gran parte di questi soldi provengono, o meglio, provenivano, forse quelli più liquidi, dalle riscossioni, delle estorsioni, del pizzo. Esatto. A chi vanno a chiedere il pizzo? La media imprenditoria è quella che viene battuta a tappeto, soprattutto poi nel campo edile non ne parliamo. Certo, c'è anche da dire una cosa, chi non paga a volte viene semplicemente obbligato a dire che ha pagato lo stesso, cioè qualche volta abbiamo avuto anche casi in cui gente non ha pagato ma gli è stato chiesto, va bene, però di che hai pagato, perché non ci possiamo rimettere la faccia e perché non si deve spargere in giro la voce che si può anche non pagare. Perché concedevano all'imprenditore tot di non pagare? Beh, perché in qualche caso può essere più conveniente lasciar perdere un potenziale fornitore di quattrino piuttosto che sollevare il polverone con un'azione eclatante, perché, ripeto, la criminalità organizzata non ha bisogno dell'azione eclatante, perché l'azione eclatante attira attenzione dello Stato. L'attenzione dello Stato è decisamente aumentata quando è iniziata questa stagione di sangue. Praticamente una zona dove prima si riusciva per il delinquente a muovere ora è diventata una zona abbastanza inibita. Si è parlato dei contatti tra la camorra in particolar modo e la mafia, e se ne è parlato in alcune occasioni. È un dato di fatto, c'erano almeno 3 famiglie, questo lo dicono i pentiti, i collaboratori di giustizia della mafia, c'erano 3 famiglie, un paio delle quali erano casalesi, che erano regolarmente affiliate alla mafia. Non a caso si dice che la camorra casalese potrebbe essere definita una mafia, perché è molto simile e molto vicina come metodi e struttura, capacità di infiltrare le amministrazioni locali e capacità di reinvestire i capitali alla mafia. Ricordiamoci che la camorra casalese ha investito in Scozia, in Francia, nei paesi dell'est, Polonia, Romania, in Spagna, in Francia, in tutta Italia, quindi voglio dire è una camorra che è forse sbagliato chiamarla pure camorra, sarebbe meglio chiamarla mafia. C'è un rapporto anche lontano nel tempo che lega le due associazioni, sì, criminali, anche ai tempi di Cutolo. Ecco, ma attualmente, secondo lei, cioè se ne è parlato anche a proposito di queste notizie di un progetto di attentato contro Saviano o comunque della circolazione delle armi, avete dettagli di un rapporto sempre così stretto? No, al momento no, e comunque poi è stata data correttamente quella notizia, il pentito parlava di rapporti del 93. Ora non penso che il tritolo che dovrebbe girare in questo momento sia quel tritolo ceduto nel 93 dalla mafia a quella camorra. Cioè non penso proprio che si parli di quel tritolo lì. Ecco. Colonnello, a proposito di Saviano, se ne è parlato tanto, ma si è parlato anche del fatto che nel territorio ogni tanto siano comparse anche delle scritte dirette contro di lui, al di là delle minacce, anche quelle più forti, quelle direttamente al vaglio appunto vostro di tutti gli inquirenti, anche soltanto girando, diciamo, nel vostro territorio, sentite che in qualche modo è diventato un po' una forma di emblema e di bersaglio della malavita? Sicuramente la camorra ha bisogno di calma e di silenzio, e lui il silenzio l'ha sicuramente rotto, perché ha portato il problema camorra casalese a livello nazionale e internazionale. Quindi chiaramente è una minaccia che ormai comunque ha espedito i suoi effetti, cioè una ritorsione nei suoi confronti probabilmente non cambierebbe nulla, anzi peggiorerebbe la situazione dell'attenzione sulla criminalità organizzata della zona. Però pazzi, gente esaltata o che possa fare follie in queste organizzazioni ci sono, lo dimostra il fatto che in questi pochi mesi ci sono stati 26 morti, perché il gruppo Setola voleva cercare di riaffermare la legge di Camorra, cioè no alla collaborazione, no alle testimonianze, no a tutto e pagare e basta. Se 26 morti sono tanti. Sono assolutamente tanti. Questo conferma che in qualche modo è, diciamo, Setola in questo momento l'uomo di maggior peso, il boss di maggior peso? Allora, è quello di maggior richiamo, come succede sempre, a volte ci sono delle merci che tirano di più, delle merci che tirano di meno. Oggi è un simbolo, ma se vogliamo vedere la pericolosità sociale, probabilmente non ha più la pericolosità sociale di allora. Tutto il suo gruppo è stato arrestato. Arrestare lui è sicuramente un grande successo che tutti cerchiamo di conseguire, però assolutamente non si può dire che lui sia il boss dei boss. I veri grandi capi sono attualmente liberi, sono Michele Zagaria e Antonio Iovine, sono loro sicuramente i più pericolosi per la sicurezza pubblica del territorio. Secondo lei, colonnello, come per la mafia, si dice che in genere i boss latitanti alla fine si nascondano nelle loro zone? Certamente sì, perché se vogliono mantenere il controllo, comandare, avere i contatti, devono rimanere nella zona. E spesso possono contare anche su una rete di colletti bianchi che va dal medico, ad esempio, di cui hanno bisogno anche durante le latitanze. Certamente, come ho detto, questi sono gruppi che infiltrano le pubbliche amministrazioni, infiltrano l'imprenditoria, quindi hanno bisogno di chi li fiancheggia e soprattutto hanno bisogno anche di chi gli ricicla i soldi, di chi fa da presto nome per le imprese, e devono essere persone insospettabili. Si è parlato tanto degli affari di questi gruppi, in particolar modo immobiliari, in particolar modo con la zona dell'Emilia Romagna. C'è un qualche affare che secondo voi in questo momento può essere particolarmente nelle mire di questi clan? Ma il clan punta dovunque può raccattare soldi. Costruire è comunque un modo che fa produrre tanto denaro. Le imprese locali offrono lavoro di elevata qualità a prezzi decisamente concorrenziali, quindi è logico che vadano a costruire e investire da quelle parti, dove oltretutto le unità immobiliari costano anche di più. La criminalità organizzata si butta su tutti i settori merceologici, dall'edilizia alla cartellonistica stradale, dal caffè da imporre alla marca tal dei tali di latte o di zucchero da imporre nella zona. Infatti una delle ultime vostre operazioni ha mostrato anche come si imponessero certe marche di caffè nei bar. Marca di caffè, la marca di latte, cioè per un certo periodo di tempo qui a Caserta veniva venduto solo un tipo di latte a prezzi superiori del resto d'Italia e le altre marche semplicemente non potevano entrare. Colonnello, si è parlato tanto di tutti gli affari intorno ai rifiuti, sia quelli tossici, sia quelli, diciamo, normali, alla gestione e dell'emergenza rifiuti in Campania. Lei crede che in questo momento, anche dopo tutta la ampia attività investigativa e l'attenzione che c'è su questo settore, che c'è stata, la zampa della Camorra ha fatto un piccolo passo indietro? Secondo me in tutti i settori c'è crisi perché il numero di arresti fatto è elevato, l'attenzione delle istituzioni è aumentata e i risultati si susseguono, quindi sicuramente qualche passo indietro è stato fatto.